Salva Danaio di Deborah Rosciani. Bentrovati a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Allora, oggi ritorniamo sui mercati finanziari perché venerdì scorso una notizia li ha scossi, notizia peraltro inaspettata, ma che per qualcuno in realtà rappresenta l'ennesimo strascico della crisi finanziaria iniziata nel 2007. Cosa è successo? Che la SEC, l'autorità americana di controllo sui mercati finanziari, ha accusato Goldman Sachs, la più celebre delle banche d'affari americane, anche essa duramente colpita dalla crisi tanto da dover chiedere aiuti pubblici per quasi 8 miliardi di dollari che sono stati peraltro totalmente restituiti, ecco, ha accusato Goldman Sachs di frode per aver creato e venduto prodotti collegati a mutui subprime rilasciando informazioni inesatte e omettendo fatti chiave alla propria clientela. Venerdì il titolo ha pagato pesantemente con un calo del 12% e ha trascinato giù tutti i listini che in questi giorni sono continuati ad essere piuttosto nervosi rispetto a questa notizia. Il fatto appunto ha suscitato non pochi timori, accentuati dall'altra notizia apparsa poi ieri sulla stampa americana, secondo la quale, riportata di nuovo oggi anche da tutti i giornali, secondo la quale l'indagine potrebbe essere allargata alle transazioni in prodotti strutturati realizzate da altri big del settore come Deutsche Bank, UBS, Merrill Lynch. E questo è un fatto che sta dominando l'attenzione degli investitori. Ma anche la Grecia continua ad alimentare una certa tensione. Il differenziale di rendimento fra titoli decennali greci e quelli tedeschi stamattina ha toccato un nuovo record e su tutto è piombata anche la nuvola di polvere in arrivo dall'Islanda a far crollare ieri i titoli delle compagnie aeree, ad innervosire ulteriormente i listini del vecchio continente, che comunque stamattina sono in ripresa. E allora, che primavera è questa per i mercati finanziari? Abbiamo visto i fatti che stanno caratterizzando queste giornate, queste sedute. Noi commenteremo tutto questo stamattina con due interlocutori: Mario Spreafico, direttore investimenti di Schroders Private Banking, e poi Elisabetta Villa, gestore obbligazionario di Anima SGR. Quindi avremo un po', come dire, una visione sul settore azionario generale, sui temi della ripresa economica, e poi ci focalizzeremo anche sull'andamento delle emissioni obbligazionarie da parte dei governi. Stamattina la Grecia, oltre ad aver registrato questo nuovo record sul differenziale rispetto ai titoli decennali tedeschi, anche con collocato titoli trimestrali in un'asta per quasi 2 miliardi di euro. In realtà l'asta offriva titoli per 1 miliardo e mezzo di euro a fronte di domande raccolte per quasi 7 miliardi. Il Tesoro ha dovuto collocare un po' più titoli, questa probabilmente è anche una buona notizia, al tasso del 3,65%. E allora, questi sono un po' i temi sui quali ci confronteremo questa mattina, ovviamente prendendo a spunto anche le vostre domande all'800240024 o al 349-238-6666 se volete scriverci. Un'occhiata, prima di partire con i temi generali di mercato, a quello che accade a Piazza Affari, che guadagna l'1,40% trainata dalla galassia Fiat. Le notizie le avete sentite nel corso del giornale radio: più 3,83% per i titoli del Lingotto. Exor, l'azionista di riferimento del gruppo, guadagna il 3,69%, avete sentito Luca Cordero di Montezemolo lascia la presidenza del gruppo, alla guida della commandita della famiglia Agnelli arriva John Elkann, e queste sono le notizie appunto che sono state anticipate dalle agenzie ma che saranno al centro di una conferenza stampa che è stata convocata dai vertici del Lingotto per il pomeriggio alle 16, tutto questo in vista della presentazione del piano industriale che invece il gruppo aveva organizzato ed è stato mantenuto appunto per domani. Lasciamo Piazza Affari, ritorniamo però ai temi generali di mercato. Venerdì una vera cannonata sparata dalla Consob americana contro Goldman Sachs, e poi la tragedia greca che sembra appesantirsi sempre di più e la nube di polvere vulcanica che paralizza l'Europa. Ecco il cocktail micidiale, non tanto perché stamattina le borse stanno andando bene, che comunque sta dominando le sale operative. I rischi legati alla crisi greca da un lato, l'allarme proveniente dalle banche statunitensi dall'altro. E come se tutto ciò non bastasse, le conseguenze dell'eruzione del vulcano islandese sul sistema economico. Questi i temi che stanno dominando le recenti giornate di borsa e che, seppur in maniera differente, stanno manifestando i propri effetti sui mercati internazionali. Per quanto riguarda la vicenda greca, l'entusiasmo seguito all'accordo raggiunto con il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea sembra aver già lasciato spazio ai dubbi sulla reale efficacia del pacchetto di aiuti varato. E i timori di insolvenza di Atene sono tornati elevati. I rendimenti dei titoli di Stato decennali ellenici hanno raggiunto ieri il record del 7,82%, mentre lo spread sul Bund tedesco è salito ai massimi dal 1998. Sotto pressione anche i CDS, balzati di 34 punti base al valore mai raggiunto di 472 punti. Oltreoceano, invece, sono state ancora una volta le banche a tornare sotto i riflettori. A preoccupare gli investitori è stata la notizia che la SEC, l'equivalente statunitense della Consob, ha messo sotto inchiesta per frode Goldman Sachs per mancate informazioni ai clienti riguardo ai rischi sull'acquisto di alcuni titoli collegati ai mutui subprime. E l'indagine potrebbe vedere coinvolti altri primari istituti di credito. Tanto è bastato ad allarmare gli investitori. E nemmeno i conti superiori alle attese, pubblicati contestualmente dalle principali banche statunitensi, sembrano essere serviti a risollevarne gli umori. 800 24 00 24, chiamateci per le vostre domande sui temi di mercato, sulle curiosità maggiori che vi sono state suscitate anche dai fatti di cronaca e di finanza che avete letto in questi giorni sui giornali. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Mario Sperafico, direttore investimenti di Schroeder's Private Banking, bentornato a Salva Denaio. Buongiorno. Buongiorno e grazie di essere ritornata con noi. Anche ad Elisabetta Villa, fund manager, gestore del settore obbligazionario per Anima SGR, bentornata Elisabetta. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Sperafico, io comincio con lei, attenendomi rigorosamente alla cronaca delle ultime ore, perché si fa un gran parlare dei danni economici provocati dall'emergenza dei cieli, sono sicuramente enormi ed è partita la gara alla quantificazione. È un danno così grave quello che sta accadendo in queste ore per la finanza? Le borse non sono apparse particolarmente turbate, a parte le ripercussioni su un preciso gruppo di titoli, quelli delle compagnie aeree soprattutto. È davvero una situazione, come qualcuno l'ha definita, potenzialmente peggiore dell'11 settembre, o la potremo digerire rapidamente? Sarà contenuta, arginata, purtroppo per loro, lo dico ai settori direttamente coinvolti, quindi compagnie aeree, turismo, l'agroalimentare, che non può essere in queste ore trasportato? Qual è la sua sensazione? Ma la mia sensazione è che, per fare una valutazione di quelli che possono essere eventuali danni, direi importanti, ci vorrà ancora qualche giorno soprattutto. Io credo che però dalle ultime notizie sembra che insomma, questo fenomeno si sta in parte diradando e quindi si tratta di un danno contenuto. Certamente è stato un test che ha messo alla prova e rischia di mettere alla prova anche l'intero sistema economico mondiale, perché logicamente un'economia così globale, basata sui trasporti, sulle comunicazioni, certamente trova in questo tipo di fenomeni probabilmente la sua fragilità. Certamente, e questo è un segnale importante, più per gli effetti di breve periodo su quello che è effettivamente una cosa del genere, un fenomeno naturale, può provocare nella sensibilità delle economie e dei propri operatori. Ecco. Io non credo oggettivamente che ci saranno dei danni collaterali, certo dipenderà molto dalla quantificazione se poi questo fenomeno proseguirà. Adesso sembra comunque una situazione sostanzialmente sotto controllo. Certo. E gli unici settori, purtroppo ahimè, sono quelli che ne fanno le spese, sono quelli dei trasporti, probabilmente che sono soggetti a, eventualmente anche a settori di che necessitano degli spostamenti veloci. E insomma, se l'eruzione del vulcano islandese ha costituito un banco di prova per il mercato, come lei l'ha definito in questi termini, nei termini che abbiamo visto, figuriamoci che tipo di banco di prova abbia rappresentato invece l'accusa che la Consob americana ha formulato nei confronti di Goldman Sachs. Appunto, l'accusa è di frode per aver collocato presso la propria clientela prodotti strutturati legati ai mutui subprime in maniera non chiara e trasparente. Su questo tema, visto che è piuttosto articolato, tornerei nella seconda parte della nostra trasmissione. Andrei invece all'altra notizia di cronaca di questa mattina, cioè alla Grecia, che è riuscita a collocare titoli trimestrali per quasi 2 miliardi di euro al tasso del 3,65%, e però, Elisabetta Villa, il differenziale con i decennali tedeschi continua ad allargarsi, siamo ancora su livelli record. Adesso naturalmente mi sono perso il foglio con il tasso toccato stamattina, 483 punti base, una tendenza inarrestabile sembra. Qual è la sua sensazione rispetto anche al buon collocamento avvenuto questa mattina? Beh, sicuramente il collocamento ha avuto nel breve un impatto positivo, si è visto sull'euro e sul titolo decennale tedesco, positivo nel senso che è rientrata un po' la paura. Questo però poi non ha fatto, diciamo così, seguito sul decennale greco che ancora rende il 7,80%. Facciamo un passo indietro, la Grecia doveva collocare 1,5 miliardi, ha collocato 1,950 miliardi, si pensava che i tassi sarebbero stati decisamente peggiori rispetto alle aste del 6 mesi e del 12 mesi della settimana scorsa per l'ammontare in asta e per la mancanza di alcuni player di sostanza che invece si erano visti settimana scorsa, e invece il rendimento è stato molto, molto buono, nel senso per la Grecia, quindi 3,65 contro un 5,5, 5 atteso. Perché non si vede un effetto? Beh, perché il mercato in questo momento non è preoccupato tanto dalla situazione di breve termine, quindi dalla solvibilità di breve della Grecia, cioè con i 45 miliardi sul piatto che potrebbero arrivare a 60 secondo le indiscrezioni che si sentono adesso sul mercato da parte dell'IMF, da parte della Comunità Europea, la solvibilità di breve non è in questione, e la sostenibilità di questo debito con un decennale al 7,80, il deficit e il debito continueranno a peggiorare e il mercato si interroga su come la Grecia senza crescita economica, perché lo sforzo fiscale richiesto per rientrare nei parametri sarà enorme, quindi impatterà anche sulla crescita economica, quindi senza crescita economica con tassi a questi livelli come riuscirà a, diciamo così, far fronte alle richieste non nel prossimo anno, non nei prossimi due anni, ma più avanti. In più il mercato ha bisogno di vedere concretizzarsi questa rete di aiuti. Per adesso le modalità di attivazione e di attuazione di questa rete di salvataggio non sono ancora chiare, per cui il vulcano ha impattato anche sulla Grecia. Una delegazione del IMF, del Fondo Monetario, esatto, della ECB, della Banca Centrale Europea, della Commissione Europea, Atene, sì. Sì, doveva essere ad Atene in questi giorni, è stato rimandato tutto a domani, per cui anche qui ulteriore ritardo, ulteriore incertezza, ecco, non tanto problemi concreti immediati quanto questo rischio, questa volatilità che continua a così pesare sui mercati. Insomma, la Grecia continua a rimanere almeno in questo momento il driver per il mercato obbligazionario internazionale. Salva Danaio ritorna sui mercati per fare un po' un punto di osservazione rispetto a quello che accaduto negli ultimi giorni fra la crisi greca, l'accusa di frode a un santuario della finanza Goldman Sachs da parte della Consob americana e poi danni provocati dall'emergenza dei cieli delle ultime ore. Allora, stamattina le borse sono molto brillanti e stanno anzi avanzando in continuazione, più 0,95% Parigi, più 1,25% Francoforte, dove c'è stato l'indicatore di fiducia ZEV che è stato migliore delle attese, Londra più 0,76% e Milano con i titoli Fiat in netta avanzata per il cambio ai vertici guadagna l'1,37%. Gli altri titoli, la Popolare di Milano più 3,21, Parmalat più 3, Pirelli più 2,77, Tenaris più 2,50, Prismian più 2,38, titoli col segno meno, nessuno in questo momento. Quelli che guadagnano meno, Terna più 0,16%, Lottomatica più 0,35, euro su dollaro 1,35,02. Mario Spreafico, le faccio fare una domanda da parte di un ascoltatore a cui poi aggancio un'ulteriore osservazione mia e quindi do il benvenuto ad Andrea da Ascoli. Andrea, buongiorno. Buongiorno e grazie per la risposta. Visto e considerato che nell'ultimo anno e mezzo i mercati sono saliti moltissimo, il trend per i prossimi mesi è ancora positivo e su quali titoli puntare? Sui titoli, come lei sa Andrea, noi non ci sbilanciamo. Se vuole Mario Spreafico potrà darci qualche orientamento settoriale, che è comunque sempre molto interessante. Ci aggiungo, Spreafico, all'osservazione di Andrea, anche qual è il vostro giudizio sulle trimestrali uscite dagli Stati Uniti negli ultimi giorni. Ieri sera è stata la volta di Citi, IBM. Quale impressione ne avete colto fino a questo momento? Corporate America sta uscendo dalle secche, anche se la disoccupazione è ancora alta. Quali segnali state considerando buoni, quali meno buoni, e questo per dare qualche indicazione a chi magari guarda questa area geografica per posizionare i suoi investimenti. Ma certamente i risultati che stanno uscendo negli Stati Uniti, quindi le maggiori società, sono, devo dire, talvolta impressionanti, perché effettivamente stanno riportando dei numeri interessanti, molto buoni, in un contesto, devo dire, macroeconomico molto difficile, o meglio di indicatori, soprattutto di economia reale, come tu hai citato, la disoccupazione è un fattore effettivamente importante, ma anche inquietante per quanto riguarda le attese di ripresa dell'economia. Questo fa parte, io credo, comunque anche di una capacità del mercato americano, della flessibilità, della grossa flessibilità, ma soprattutto anche della voglia di riprendere dopo una importante crisi, e quindi anche le imprese che hanno questa grossa capacità di ristrutturarsi, di generare utili. La grossa attenzione va però verso, ad esempio, le tipologie, soprattutto la qualità degli utili. Noi abbiamo assistito soprattutto alle banche che oggettivamente riportano dei buoni dati da un punto di vista di utili netti, ma anche di alcuni altri indicatori, però si tratta di una qualità degli utili ancora molto precaria, cioè la gestione caratteristica delle banche lascia ancora a desiderare, quindi ci sono ancora delle incertezze. Anche alcuni industriali hanno aperto un po', come dire, alle stime e quindi a ipotesi di recupero, quindi sicuramente di un messaggio importante che il peggio è passato, ma c'è molto effetto di ristrutturazione aziendale degli ultimi mesi. Questo spiega anche, soprattutto dell'ultimo anno, questo alto tasso di disoccupazione. Ora, la domanda fondamentale è quella di dire: ma questi mercati sono correttamente valutati, visto questa euforia? Allora, io credo che ci sono molti indicatori per capire se i mercati possono essere valutati o meno. Una cosa è certa, che gli indicatori che venivano usati 2 anni fa, quando eravamo in un trend rialzista che proseguiva da anni, in parte sono saltati. Faccio un esempio: addirittura nel 2007 si considerava che i PE, price earning, erano un indicatore che indicavano che i mercati erano ancora sottovalutati in questo periodo. I rapporti prezzo utili, sì. Esattamente. Ora le serie storiche di tutti questi multipli in parte sono saltati, perché la crisi del 2008 è stata veramente un terremoto finanziario, e credo che bisogna ritornare a valutare le imprese, soprattutto le aziende industriali, con una vecchia logica, quindi con estrema selezione, esaminando attentamente i bilanci e la capacità di generazione di cassa delle società. E su quindi, qualche settore ha voglia di sbilanciarsi? Ma direi che visto io che continuiamo che a parlare di banche, sono sempre grandi osservati speciali questi titoli di tutte le nostre osservazioni. Poi ovviamente adesso abbiamo orientato completamente l'attenzione sulle emissioni dei governi che devono ripianare i deficit e rimettersi in carreggiata, la tensione provocata dalla Grecia, ma sembra che tutto il resto qualche volta abbiamo l'impressione che sia un po' scomparso anche dai monitoraggi delle case di investimento, ma anche giornalistiche. Insomma, qualche dettaglio in più rispetto invece a quei settori di cui parliamo poco? Ma ci sono settori come possono essere, io credo sicuramente, alcuni settori anticiclici, ma che sono anche i cosiddetti settori ad alta distribuzione di dividendo, come ad esempio le utilities, ma anche il settore dell'energia, che non è riuscita a performare, come ad esempio il prezzo dell'energia degli ultimi periodi, come il petrolio e altre materie prime. Ci sono anche dei settori industriali di nicchia, come i tecnologici o altri settori, che possono sicuramente essere interessanti ed essere forse i primi a uscire da questa ripresa, e tutti quei settori che in parte sono legati anche ai mercati emergenti, in poche parole dove i mercati emergenti sono i loro migliori clienti. Ecco, questi sono i settori su cui fare una determinata selezione. Ancora cautela sulle banche, in quanto abbiamo visto anche le ultime notizie, insomma, che delle criticità in tutto il settore ci sono ancora. Allora, sulle banche torneremo fra un attimo, ma adesso torniamo anche, sempre magari prendendo a spunto il caso Goldman Sachs, al mercato obbligazionario generale. Elisabetta Villa, allora, la notizia dell'accusa di frode a Goldman Sachs ha provocato turbolenze anche sul mercato obbligazionario, a parte tutto quello che provoca ogni giorno l'ondata di notizie che arrivano dal fronte greco. Ecco, invece questa notizia arrivata dagli Stati Uniti ha provocato determinati atteggiamenti anche degli investitori sul fronte degli investimenti sul mercato obbligazionario, in particolar modo quello corporate, quindi quello societario. Innanzitutto sul settore finanziario, come dicevate prima, perché ovviamente alla notizia di Goldman Sachs, i titoli di Goldman Sachs, soprattutto anche i senior, hanno cominciato ad allargare, vuol dire che il rendimento su titoli a scadenza media è salito dai 40 ai 50 punti base su diverse scadenze. Si è visto anche un allargamento di titoli senior di banche europee ed americane, proprio per il discorso che facevamo prima, cioè che questa indagine potrebbe coinvolgere non solo player americani, ma anche banche d'oltreoceano. Le posso fare un inciso e chiederle che cos'è un titolo senior? Certo, assolutamente, chiedo scusa. I titoli obbligazionari si distinguono a seconda del grado di accesso poi al rimborso che hanno i diversi investitori. Voglio dire, un titolo senior è quello che viene soddisfatto per primo in caso di default o in caso di situazione di turbolenza. Man mano che ci si allontana dai titoli senior, si va verso i titoli subordinati, cioè quelli che verranno dopo in caso di procedura concorsuale sul patrimonio dell'emittente come soddisfacimento del debito. Benissimo. Per cui i senior sono quelli che vengono prima, sono quelli che vengono per primi rimborsati. Per volerne dare una definizione brutale, i più affidabili in assoluto. Esatto, insomma. Esatto, infatti il merito di credito di queste emittenti solitamente è più alto rispetto a quelli subordinati. Lo stesso allargamento si è visto anche sui CDS, cioè su quello che viene visto come il premio che si paga per assicurarsi contro il rischio di default, contro il rischio di fallimento di questi titoli finanziari, per cui anche qui Goldman Sachs ha visto il suo CDS allargarsi di 40 basis point, Merrill Lynch 30, Citigroup 25 e così via, fino ad arrivare all'Europa dove i movimenti sono stati minimi. Non è rimasto confinato al settore finanziario questa turbolenza, ma è andata anche ad incidere sul resto dei titoli societari, con insomma in media allargamenti di 10, 20, 30 basis point a seconda del nome dell'emittente, per cui un impatto l'ha c'è avuto e l'abbiamo senz'altro visto. 800 24 00 24, io torno a ricordare, non l'ho fatto nel corso di tutta la puntata, il numero verde per intervenire in diretta questa mattina, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Invece un ascoltatore, Lino, ci chiede se possiamo dare la definizione di CDE. Lino, io non saprei a che cosa si riferisce, forse a CDS, Credit Default Swap, che abbiamo appena definito adesso con Elisabetta Villa, magari se può essere un po' più preciso. Qualche ascoltatore invece ci chiede delucidazioni su specifici prodotti di investimento. Voi potete capire che noi dal nome non siamo assolutamente in grado di potervi fare una fotografia dettagliata della tipologia di investimento che avete fatto. Se avete pazienza, magari mandateci delle mail con qualche dettaglio in più e saremo in grado appunto di documentarci un po' meglio, così ovviamente con il solo nome non riusciamo, così come vi ribadisco non possiamo intervenire su singole storie, su singoli nomi, su singoli titoli, anche se ho la tentazione quasi quasi di chiedere due cose a Mario Sprafico, perché so che comunque lui la realtà italiana la osserva molto da vicino, che cosa pensa di questa rivoluzione al vertice Fiat. Lascio in libertà Mario Sprafico, la raccoglie la mia provocazione o la vuole lasciar cadere? Ma io credo comunque che questa diciamo anche questa indiscrezione appunto sull'eventuale annuncio di questa conferenza stampa oggi di Fiat, credo che sia tutto più o meno confermato ormai. Esatto. Sì, quindi addio nel senso che se ne va dalla presidenza Fiat Luca Cordero di Montezemolo, le lascia tutta John Elkann. Ma io credo che sia un ritorno alla famiglia, in poche parole, di quella che è il vertice della società. Non dimentichiamo che la presidenza Montezemolo è avvenuta in un momento proprio di non personaggi della famiglia che potevano accedere a un ruolo così importante nella governance della società di famiglia. Credo che Elkann ha fatto la sua esperienza in questi anni e quindi adesso riprende il posto in una TV forse al vertice, quindi è un ritorno alla famiglia dopo anni di esperienza quindi nel gruppo. Ecco, sarà importante comunque vedere cosa diranno per quanto riguarda il futuro dell'architettura poi del gruppo, perché credo che questo forse sarà, non credo che sarà solo l'annuncio insomma. E poi il piano industriale che invece è programmato per domani, la presentazione è in programma per domani. Allora ritorniamo invece al mercato in termini generali con la domanda di un ascoltatore da Milano che è Roberto, che saluto. Roberto, benvenuto. Buongiorno. Allora, la domanda è questa: io ho un portafoglio fortemente sbilanciato sugli Stati Uniti, obbligazionario e in ambito informatico software. Ora che i titoli sono risaliti, qual è l'orizzonte di pareggio o di utile vendita rispetto a quello che è l'oscillazione del dollaro. Ah, però scindo la domanda in nei due settori che lei ha citato, proprio anche per le rispettive competenze dei nostri interlocutori. Allora cominciamo con l'ambito obbligazionario americano, Elisabetta Villa. Sì, innanzitutto dovrei capire che tipo di titoli ha, titoli societari o a titoli governativi. Ha detto anche societari. Roberto, lei ha detto governativi o societari? Societari, obbligazioni societarie. Perfetto, sì. Io non so bene quando è entrato sul mercato, però diamogli una prospettiva così rispetto alla situazione attuale, tassi attuali. Ha corso molto e diciamo che un buon recupero si è visto. Ovviamente il settore che ha citato sono settori un pochino più volatili, un pochino più lenti a recuperare rispetto ad esempio al settore finanziario, che da marzo dell'anno scorso ha visto i rendimenti tornare su livelli che non vedevamo da molto tempo. Assieme a questo c'è il dollaro, che ha dato una mano abbastanza notevole, continua a darla proprio grazie anche alla Grecia, grazie alla situazione migliore di ciclo economico in cui sono gli Stati Uniti, per cui io credo che insomma si possa avere ancora un attimo di pazienza. Quello che dico sempre io è avere un portafoglio ben diversificato, quindi non troppo concentrato né come valuta né come settori, e soprattutto per un investitore basato in euro avere una buona componente anche in valuta euro, perché comunque poi noi le nostre spese le facciamo con gli euro e non con i dollari. Esattamente, peraltro a proposito di portafogli di titoli obbligazionari governativi, leggevo un'inchiesta su questo argomento fatta in questo non questo fine settimana, apparsa ieri su Corriere Economia, e c'era un suo collega che suggeriva per esempio ad una suddivisione del portafoglio fra un 70% dedicato a titoli di emittenti dell'area centrale dell'euro, fra i quali includerebbe, diceva lui, l'Italia, e un 30% investito in paesi periferici. Questo potrebbe essere un buon punto di equilibrio. Poi chiedo anche a lei, Villa, di farci un portafoglio magari focalizzato un po' sull'Europa, di titoli obbligazionari, che scadenze è bene magari inserire. Chiaramente noi prendiamo sempre in considerazione il portafoglio di un investitore prudente, non particolarmente aggressivo. Poi Roberto aveva fatto anche la sua riflessione sul settore azionario, il tema high tech aveva toccato. Spreafico, questo è un comparto che, guardando agli Stati Uniti, rappresenta in questo momento un settore che vive uno stato di buona salute? Direi che è il comparto per eccellenza degli Stati Uniti in questo momento. D'altra parte è anche uno di quei settori che è uscito, direi, quasi indenne dalla crisi del 2008, perché le società avevano già subito una crisi importante nella bolla del 2000, quindi società che si erano ristrutturate, quindi creandosi una forza di base ma anche una capacità finanziaria non indifferente, e quindi hanno in parte anche beneficiato di questa situazione del 2008, perché essendo in molti casi degli importanti generatori di cassa sono stati oggetto di operazioni di importante investimento, e quindi io credo che sia un settore assolutamente da tenere in questo momento. Per quello che riguarda la SEC e Goldman Sachs, Spreafico non ho fatta commentare questa vicenda, che invece il mercato l'ha scosso venerdì, è stata una giornata difficile, insomma si è spaventato di nuovo. Qualcuno ha parlato di un attacco frontale all'industria finanziaria americana, che ovviamente cerca di mettersi di traverso la riforma che vuole mettere in campo l'amministrazione Obama. Potrebbe essere possibile questo? Come mai, visto che è un'indagine in corso da tempo, l'accusa a Goldman Sachs esce solo ora? È un modo, secondo lei, anche un po', non lo so, per interrompere l'idillio che dura da molti mesi fra investitori e mercato azionario? Ma no, io credo che questa vicenda Goldman Sachs, che tra l'altro non è iniziata adesso con il caso della SEC sui CDOs, ma anche sul caso AIG, quindi non ricordiamo che sono state fatte nei mesi scorsi delle accuse molto pesanti a Goldman Sachs per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento di una situazione di dissesto di AIG. Io credo che questa vicenda Goldman Sachs riguarda un po', io lo definisco un po' lo sciame sismico del terremoto finanziario del 2008. Abbiamo assistito in questi mesi al caso Dubai, al caso Grecia, adesso al caso Goldman Sachs. Ci sono stati altri casi che passati un po' inosservati, ma altrettanto importanti, un caso di perdite su alcuni fondi immobiliari negli Stati Uniti di grosse banche di investimento, non solo americane ma anche europee. Quindi io credo che questo fa parte ancora di quel tipo di effetto collaterale, quindi di queste scosse di assestamento. La riforma Obama potrebbe, io credo, sgombrare un po' il campo da eventuali ancora incertezze per quanto riguarda queste situazioni critiche che ci sono a livello mondiale derivante dalla crisi finanziaria del 2008. Quindi questo sottovaluto in parte questo tipo di vicenda Goldman Sachs, perché la ritengo, come dicevo prima, un effetto collaterale. Può darsi che ne emergano anche degli altri a livello non solo europeo ma anche americano, ma credo che sia fondamentale aprire le porte a questa riforma, questa re-regulation dei mercati finanziari, che potrebbe avere anche degli scossoni sui mercati. Infatti sarà probabilmente più dura per Obama di quanto non sia stato per esempio con il portare avanti la riforma sanitaria. Elisabetta Villa, ha aperto il portafoglio dei titoli obbligazionari europei? Ci dà una ricettina per poter costruire, e mi rendo conto che le sto chiedendo non l'impossibile, perché poi ogni portafoglio dobbiamo costruire a seconda delle nostre caratteristiche di investitore, a seconda della necessità che abbiamo del nostro denaro e quant'altro, però così diamo una ricettina di base rispetto alla situazione attuale di mercato, dei tassi di interesse, insomma cos'è bene mettere in un portafoglio che abbia delle caratteristiche abbastanza prudenti? Beh, abbastanza prudenti vuol dire che i periferici devono essere presenti in misura bassa, quindi parlavamo prima di un 30%, quindi, poco Portogallo, anche... poca Irlanda, esatto, poca Spagna, poca Italia, perché la Spagna francamente è ancora a livelli di rendimento che non rispecchiano probabilmente il rischio di volatilità a cui ci potremmo sottoporre anche nel breve periodo, per cui un 20-25% di questi paesi, 30% di questi paesi può andare benissimo, il 70% lo investirei ancora in paesi core, in paesi a più basso rischio, con ovviamente i titoli tedeschi che per quanto rendano poco però danno anche una caratteristica di stabilità, per cui questo sicuramente. Per quanto riguarda le scadenze che mi chiedeva prima, visti i tassi e vista la situazione del ciclo economico, io non mi spingerei oltre i 5 anni, perché ovviamente qualora si dovesse vedere una accelerazione ulteriore del ciclo, quello che faranno i mercati è scontare rialzi dei tassi e quindi impattare soprattutto sui tassi a lungo termine delle scadenze delle curve dei rendimenti, per cui l'investitore andrebbe a sottoporsi a rischi di perdita in conto capitale derivante da un eventuale aumento dei tassi proprio legato. La devo interrompere, Villa, perché abbiamo l'appuntamento con le parole del risparmio, il Salone del Risparmio di Assogestione inizia domani, il nostro percorso volge al termine. Oggi la parola scelta da Radio 24 è banca depositaria. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. Le società di gestione del risparmio, le SGR, sono soggette al controllo della Banca d'Italia e della Consob. La prima è incaricata di vigilare sull'attività di investimento dei fondi, mentre la seconda si occupa delle informazioni che devono essere fornite ai risparmiatori. A questo duplice controllo se ne aggiunge un terzo, privato, svolto dalla banca depositaria, ovvero la banca presso la quale devono essere depositati tutte le somme di denaro e i titoli posseduti dal fondo. Compito di questo organismo è quello di vigilare la società di gestione del risparmio, monitorare la regolarità delle operazioni di acquisto e vendita di titoli, le modalità di acquisto e rimborso delle quote di fondi comuni e il calcolo del loro controvalore. La banca depositaria vigila inoltre sull'operato della società di revisione, in merito alla revisione contabile che annualmente deve essere fatta per controllare i bilanci della società di gestione. Le parole del risparmio. Abbiamo terminato, Salvadanaio, per oggi. Devo salutare rapidamente Mario Sprafico ed Elisabetta Villa per essere stati con noi. Mi spiace perché non sono riuscita a parlare di Mosca, che torna sui mercati 12 anni dopo il suo default. C'è un roadshow in corso sui mercati internazionali, ma lo faremo un'altra volta. Salvadanaio torna domani. Buona giornata.